Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Massimo Giuseppe Bossetti è questo il nome del presunto assassino di Yara Gambirasio, 43 anni, sposato con 3 figli, 2 femmine e un maschio. Animalista convinto e amante dei suoi cagnolini, dal profilo personale di Facebook di Bossetti emerge la figura di padre di famiglia amorevole e di uomo, dalla battuta pronta, con qualche scivolone nella volgarità delle battute di cattivo gusto. Sarebbe lui insospettabile. Non voglio parlare di Bossetti, non voglio parlare dei grandi delitti, non voglio parlare dei fatti che appassionano l'umanità televisiva giorno dopo giorno, dei frequentatori dei salotti del telecrimine. No, oggi voglio parlare di una percezione che sicuramente hanno le persone che leggono giornali, guardano televisione, ascoltano la radio, leggono soprattutto un flusso ininterrotto di notizie che gli arriva nei loro smartphone. Esiste qualche volta una sorta di meccanismo perverso, non sempre è provocato da una precisa volontà, o a volte c'è un disegno molto dettagliato, ma non voglio fare il complottista, per cui certe notizie prevalgono su altre e certe campagne in realtà formano la nostra opinione. È un discorso vecchio, quanto l'informazione può influire nei fatti economici, nelle evoluzioni sociali, nella demolizione o nell'esaltazione di esseri umani. Beh, questa mattina voglio parlarvi di un libro che probabilmente farà parlare di sé, che nasce da fatti personali, individuali, quindi ne abbiamo massimo rispetto, ma che ci pone una riflessione su quello che è il nostro mestiere, il mestiere di gente come me, che racconta ogni giorno il mondo, lo racconta a modo suo, con i suoi mezzi, con i suoi strumenti, con la propria equazione esistenziale che fa da filtro. Non ricerchiamo l'obiettività assoluta, ricerchiamo l'onestà. Vincenzo Mastronardi, psichiatra, criminologo, l'abbiamo avuto in trasmissione casualmente qualche giorno fa, ha appena pubblicato un libro, Mass Media e Fango, i clamorosi falsi giornalistici delle più note testate nazionali. Questo è un libro che sicuramente farà parlare di sé. Perché? Perché dietro le grandi notizie, i grandi fatti, molte volte individua Mastronardi alcuni meccanismi che fanno capo anche a alcune particolari patologie che soffre molte volte la stessa persona che fa le notizie. A volte noi tendiamo a credere fortemente in quello che facciamo al di là dell'evidenza dei fatti. Perché? Perché abbiamo in testa una nostra particolare lettura e siamo convinti, ci autoinganniamo che sia esattamente questo. A volte abbiamo una sorta di disumanizzazione totale, non ci interessa il bersaglio dei nostri pezzi, delle nostre campagne, di quello che scriviamo, non ci rendiamo conto di che arma potentissima abbiamo in mano. Beh, insomma, questo non deve essere l'auto da fede del giornalista. Non siamo i buoni, non siamo i perfetti, non siamo quelli che sono immuni da ogni colpa, ma ci piace riflettere con qualcuno che su questo ha fatto una riflessione. Siete convinti che esista la macchina del fango? Siete convinti che esistano persone che consapevolmente la mettono in atto? Siete convinti che esista anche molto vittimismo da chi molte volte si trova al centro delle situazioni di cronaca? Ne parliamo tra un istante. 800 24 00 24. Melog. Cronache meridiane. Se avete capito bene il tema, adesso vediamo qualche elemento in più per aiutarci a riflettere su questo fatto. Mass Media e Fango, i clamorosi falsi giornalistici, le più note testate nazionali. Autori Vincenzo Mastronardi, editore, penso, Armando Editore. Vincenzo Mastronardi, buongiorno. Buongiorno a lei. Mastronardi, ricordo, psichiatra, criminologo, è titolare di una cattedra di psicopatologia forense presso la prima facoltà di medicina all'Università di Roma Sapienza. È inutile dirlo, Mastronardi, ci togliamo subito il dente. Il libro parte da una campagna che lei ha subito, è qui proprio per raccontarci esattamente in che termini si è svolta questa vicenda. Lei chiamò un giorno il comandante Schettino a fare una lezione alla sua università, il mondo crollò di indignazione. Ecco, questo è il messaggio che è passato, ovvero sia quello che io ho chiamato il capitano Schettino. La vergogna nazionale sulla cattedra universitaria. Esatto. Nulla di più falso. Ecco, innanzitutto comunque il libro è partito dalla necessità di vendicare anche un suicidio avvenuto grazie purtroppo ai mass media, e ho assistito io il caso del gioielliere Mastro Lorenzi, che per legittima difesa uccise, dopo 4 rapine che aveva avuto, mai sparato in vita sua, uccise i rapinatori. Non c'era la nuova legge sulla legittima difesa, e quindi lo tacciarono di lo chiamarono l'orefice western, eccetera eccetera, lo trovarono impiccato non molto tempo dopo. Passò per una specie di vendicatore della notte, di pazzo, esatto, sparatore, era un poveretto, esatto, che difendeva la sua gioielleria. Non è l'unico caso questo, quindi c'è stato poi un altro caso che mi ha motivato poi a scrivere il libro stesso, ma come diceva lei giustamente, proprio grazie ad un'esperienza vissuta da me. Qualcuno vede un uomo con una borsa in mano che sta correndo da qualche parte, potrebbe pensare ad una rapina. Se uno invece vede un uomo che sta correndo e si chiarisce che sta per andare a prendere un treno, a questo punto le cose cambiano. Tutto sta nel come, nella connotazione che si dà. Sì, ma ci racconti il caso Schettino, perché io mi ricordo la mattina, le dico la mia percezione, sì, cominciò su Twitter, su Facebook, dovunque, bestiale, dovunque, ridicolo, dovunque. Pensate, Schettino che fa una lezione all'università, la vergogna sul nazionale. Panico. No, ma la cosa grossa era lezio magistrale sul panico, incredibile, come se io avessi dovuto necessariamente comunque per meriti particolari chiamare Schettino proprio sul panico, incredibile. E questa notizia, esattamente come fu invece? Ecco, esattamente, questo è storia, perché questo ormai è scritto non solo nel libro da parte non solo mia ma di chi realmente ha fatto la lezio magistralis, che trattasi di una psicologa, si chiama Luana De Vita, ha parlato di panico. In realtà gli avvocati di Schettino vennero a conoscenza su internet delle prime notizie relative ad un simposio che io avevo organizzato con i miei collaboratori, non già in università ma fuori dall'università, quindi la prima bufala era che si è pensato che fosse in una università, nell'università di Roma La Sapienza, non era nell'università di Roma La Sapienza. Seconda bufala, quindi, atteso che gli avvocati di Schettino lessero da qualche parte in internet, perché era dovunque questa locandina dove si parlava, ci ridevamo tutti, diciamo la verità, ci sembrava paradossale, comandante Schettino che ha da fare la lezione magistrale. Sto rispondendo appunto alla sua domanda. A un certo punto mi chiesero, atteso che era scritto lì, ricostruzione tridimensionale dell'evento critico Costa Concordia, perché un esperto, un ingegnere esperto di costruzioni tridimensionali, con cui si è fatta una serie di ricostruzioni, tipo il delitto di Perugia, Amanda Knox, tipo una serie di altre ricostruzioni tridimensionali, e volle cimentarsi quella. È una storia chiusa, ieri Sollecito era da Lilli Gruber, quindi quella è una storia su cui tutto quello che è stato va seppellito. Esatto. E quindi a questo punto c'era questa ricostruzione che questo ingegnere desiderava fare, della durata di 3 minuti. Gli avvocati quindi mi comunicano: possiamo esserci anche noi, vorremmo noi visionare un attimo anche noi. Lecito da parte loro, penso, no? Visto che c'era c'era ancora una causa in corso, mi esatto, pare. Esatto, non era non era condannato, quindi era solo imputato. A questo punto mi sono consultato con un avvocato chiedendogli appunto: posso far venire a consentire che vengano? Sì. Perché no? A questo punto gli avvocati possono tranquillamente esserci. La cosa è avvenuta così, che quel sabato, atteso che loro erano giovedì e venerdì, erano a Grosseto per il processo, di sabato mi vedo entrare in aula non solo gli avvocati ma anche Schettino. Se sono portati dietro gli avvocati. Esatto. A questo punto nel pubblico mi si alzano due mani, l'avvocato e Schettino, E cosa dovevo fare? Non concedere di parlare? Voi uscite e uscite fuori? Atteso che non era una lezione sul panico, uno, due, non doveva parlare di strategie, di manovre o difesa. Comunque si è imbucato Schettino alla lezione, ha preso l'occasione e si è imbucato e si è giocata a questa cosa, diciamo, ecco, che così. Ecco qua, allora a questo punto, ecco, però faceva notizia e nonostante io continuavo a dire guardate ai giornalisti, poi a posteriori, a proposito, la notizia è uscita poi un mese dopo, non contestualmente, voglio dire, in quella stessa giornata. Questo fatto mi sembra molto chiaro, diciamo, l'episodio aveva una sua base che però andava spiegata. Schettino si è imbucato a una lezione che non doveva venirci senz'altro, ha alzato la mano e già che c'era Schettino, non è che dietro era stato invitato, convocato per la lezio magistralis. È chiaro che la forza del titolo è una tentazione grossissima. Sentiamo Sergio un attimo. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di avermi chiamato. Io vorrei dire che la macchina del fango in realtà ha radici molto molto antiche. La più famosa credo che sia quella delle catilinarie di Cicerone, per non finire poi tutt'oggi facciamo ancora il film con Nerone. Sì, sì, credo che siamo una pratica molto antica, nata praticamente da quando l'uomo ha cominciato a scrivere, se vogliamo dire, ecco. Non è, la macchina del fango ha delle radici. Oddio, oggi però posso dire un'altra cosa, no? Esiste anche una sorta di vittimismo che molte volte l'ergersi a vittime sacrificali alla macchina del fango è, diciamo, è difficile trovare quando entra nel lessico comune il termine macchina del fango. Ogni persona presa col sorcio in bocca dice è la macchina del fango. Bisogna trovare una via giusta, sì, e la via giusta è sempre basata ci vorrebbe un po' di etica professionale da parte dei giornalisti, e poi naturalmente così si corre il rischio poi di non essere più creduti a forza di parlare male di Tizio Caio, sempre nel peggiore dei modi. Ma io vengo da una città in cui era famosa per un veleno che veniva, diciamo, elaborato nel 500, si chiamava l'acquetta perugina, che era un veleno potentissimo, veniva usato per sterminare i nemici dalle famiglie del posto. L'acquetta perugina in realtà è anche la maldicenza che viene seminata per Corso Vannucci, che è il corso di questa città, dove se uno vuole demolire una persona mette in, a me questo accadeva ai tempi frequentavo con la città, mette in azione l'acquetta perugina, e la vulgata fra le persone facendo avanti e indietro in questo corso in cui si svolge tutta la vita della provincia, di quel tipo di provincia, comunque voi diffamate, mettete in giro l'acquetta, poi qualcosa tornerà senz'altro a casa. Pietro La Porta, buongiorno. Piero La Porta, buongiorno. Buongiorno. Ex capo di Stato Maggiore, ha scritto un volume proprio per Mastronardi intitolato Esempi della manipolazione delle notizie al servizio del potere, menzogna di lotta e potere. Quando però diventa una strategia politica vera e propria, politica naturalmente in quell'area limacciosa in cui la politica si muove in maniera non proprio palese, questo tipo di agire che noi abbiamo già accennato con Mastronardi, quando la macchina dei giornalisti presa dall'euforia abbandona alcune garanzie proprie della professione, abbandona la deontologia, segue la chimera della notizia che fa colpo comunque, che circola, che gira, che viene ripresa, e abbandona un attimo l'attenzione. Però esiste un esempio ben più pericoloso, quando in realtà mettere in giro la famosa acquetta diventa una strategia. Lei cosa ne sa di questo? Ma io ho fatto due esempi, quello di Calabresi e quello di Aldo Moro. Ma Calabresi, tutti sanno, commissario Calabresi, il commissario Luigi Calabresi fu accusato di essere l'assassino di Pinelli, di Giuseppe Pinelli, e in quegli anni, onestamente, io mi ricordo, era la vulgata andava per la più, per tutti, anche per gli illuminati intellettuali, per quello che era in metra panzè, non semplicemente per lotta continua. Calabresi qualcosa aveva fatto, perché Pinelli era stato buttato da quel balcone. Dunque 757 personalità della cultura firmarono una lettera che accusava Calabresi. C'erano anche nomi grossi e attuali, se non sbaglio. Assolutamente. Umberto Eco, se non erro. E credo che quelli che abbiano chiesto scusa non siano due o tre, non di più. Ora, dopo, ma guardi che poi il fango c'è ancora, se ne va in Piazza Fontana, c'è una lapide e là, che è a tutt'ora accusa Calabresi, pur avendo acclarato nella maniera, però, cioè, il giudice D'Ambrosio è una persona rispettabilissima, fece delle indagini assolutamente serie. Prosciolse Calabresi rimase intrappolato in questa macchina fino a venirne ucciso da coloro i quali poi avevano promosso le accuse da lotta continua. Quindi una sorta di terribile vortice vizioso nel quale poi la vita di una persona onoratissima che stava continuando a indagare su Piazza Fontana e su quello che era effettivamente accaduto, la vita di questo galantuomo fu stroncata. E non si può dire allora che fu semplicemente perché qualche giornalista non aveva osservato la deontologia. Mi sembra un disegno abbastanza scientifico. Ora, lei mi insegna che il giornalismo, proprio come nel caso, come è accaduto al professor Mastronardi, segue molto l'eco della prima ora, poi le verifiche non sempre sono fatte con accuratezza, quando non vengono affatto compiute. Allora c'è un rapido accodarsi in questa processione di salmodianti e il risultato finale lo si vede. Allora, quello che ci dice adesso Piero La Porta, che è stato capo di Stato Maggiore, quindi è una persona che ha avuto un ruolo importante comunque nelle nostre istruzioni, che nella notizia vale l'imprinting, come nelle analisi psicoanalitiche. L'imprinting è comunque la prima impressione, è il clamore a cui ci si accoda per far parte appunto del corteo di quelli che cavalcano la notizia. Poi, anche se la notizia in qualche maniera viene smentita, molte volte la stessa smentita, la stessa revisione non avrà mai, per quanto ha rilevanza tecnica negli organi di informazione, lo stesso effetto che ha avuto la prima clamorosa rivelazione. Ci fermiamo un istante, poi riprendiamo questo tema che mi sembra interessante. Melog. Cronache meridiane. Tu conosci, vero? Sì. Dove l'hai conosciuto? Era l'operazione Vespri Siciliani, quando l'esercito andò a combattere. Tu l'hai conosciuto giù? Sì, in Sicilia. Che tipo è? Beh, uno proprio solido, forte. Poi anche un bravissimo analista. Scrive dei pezzi. Sta zitto. 800240024, scusate, il solito fuori onda con Pietrangelo Buttafuoco, che occupa abusivamente, come ormai è stranoto, questa aula da cui trasmettiamo Melo, perché non ha un ufficio. La domanda è: trovate un ufficio a Buttafuoco? Però ne approfitto. Piero La Porta, ex capo di Stato Maggiore, ha scritto un libro, il volume Mastronardi, appunto, sulla manipolazione. La ricorda Pietrangelo Buttafuoco? Vi siete conosciuti al tempo dei Vespri Siciliani? Sì, è nata una grande amicizia fra me e lui. Ho una grande stima di Pietrangelo. Però non può parlare adesso perché non fa parte. Comunque, vabbè. Ah, perché sei diventato islamico. Nessuno è perfetto. No, vabbè, ma ci ha aperto un nuovo settore, un nuovo terreno di caccia che lei non immagina nemmeno. Il fascino che ha acquisito Buttafuoco da quando gira intabarrato con la scimitarra sempre in mano, figuriamoci, è cambiato moltissimo. Però guardi, gliene ho dato atto immediatamente quel mattino. Ha scritto un articolo su Mosca e sulla devozione mariana a Mosca come nessun cattolico ha mai scritto. Un articolo commovente, dico. È una... Vabbè, adesso ritorniamo allo stato laico, scattoliciamoci o musulmanizziamoci, non so. Mi interessa sapere però la figura di Cossiga, lei la cita continuamente e costantemente. Come Cossiga chi fu? Un grande manipolatore? Fu una persona che conosceva questi meccanismi e sapeva ben usarli? No, guardi, Cossiga era un uomo di potere, innanzitutto. Credo che come intelligenza politica sia stato secondo soltanto a Moro. E forse questo si può leggere. Beh, però essendogli sopravvissuto direi che forse gli è stato primo. Non è che sempre i più intelligenti sopravvivono, attenzione, se no togliamo alla violenza la sua funzione, come devo dire. Sterminatrice al di là di ogni valore. Storica, perché no, ma quello che Cossiga io non lo so, di certo è un mistero. Io richiamo nel mio capitolo, nel libro di Mastronardi, io richiamo la vicenda del Lodo Moro. che è un altro esempio classico di come si costruisca una fandonia su una porzione di verità, perché il lodo Moro ci fu. Ce la riassuma allora, ce la sintetizzi allora, per gli ascoltatori. Allora, inizi anni 70, l'onorevole Moro commissiona ai servizi un accordo con Arafat perché non facessero attentati in Italia. In cambio noi avremmo propiziato il loro il riconoscimento della loro politica in seno alla comunità europea. Allora non c'era ancora l'Unione Europea. Inizia un percorso. Questo è storico, accertato questo. Io ho intervistato il generale Armando Sportelli, che è stato altissimo funzionario dei servizi segreti, altissimo e onoratissimo, perché ce n'è tanti di onoratissimi, contrariamente a quello che poi... il quale fu incaricato di negoziare personalmente con Arafat questa posizione. Va bene? E la Fandonia invece dove stava? L'aspetto mendace di tutto questo? Guardi, allora le devo leggere il capitolo, perché è stato una... per esempio, si dice che Giovannone, che era alle dipendenze di Sportelli e lavorava sotto il controllo di Armando Sportelli, Giovannone operava autonomamente ed era in diretto contatto con l'FPLP, ma che era il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina di Abu Abbas. E dopodiché si fa passare la Fandonia, per cui il palestinesi attraverso Moro avevano il permesso di scorrazzare in Italia e potevano anche colpire obiettivi ebrei a mansalva. Non in Italia, però in altri paesi. In Italia questo era secondo... Quindi è una sorta, diciamo, la deformazione rispetto a una notizia base, che era un accordo... Rispetto alla notizia base... Voi non venite a farci attentati e vi diamo una mano in sede di... Ma vede che poi il diavolo non fa i coperchi, ma talvolta non fa neanche i manici. Cossiga richiama più volte l'esempio dell'attentato a Fiumicino del 1985. Ora... Il 1985 sono 7 anni dopo la morte di Moro. Il lodo Moro chiude la sua parabola il 13 giugno 1980 al vertice della Comunità Europea a Venezia, dove la dichiarazione finale della Comunità Europea è un'apertura. Sì, ho capito, ma mi faccia capire proprio la porta. Alla fine, cosa vuol dire lei? Che Cossiga voleva mettere in giro la notizia che Moro era in combutta con dei terroristi? È più sottile la questione, perché se Moro aveva fatto l'accordo con l'OLP e non c'era questo accordo, lo testimonia Sportelli, parole sì, sue che io riporto. Cosa accadeva se ci fosse stato? Se ci fosse stato, allora il Moro era, e se l'accordo prevedeva di colpire obiettivi ebrei a mansalva, allora Moro era il nemico di Israele. Tiri lei le conclusioni. Quindi voleva creare una sorta, diciamo, di dissenso intorno alla figura di Moro, e questa è la sua testimonianza. Lei viveva e frequentava quei palazzi, quindi non ho nessun strumento per mettere in dubbio quello che lei dice, l'ha scritto e mi sembra una esemplificazione, però queste cose sono sempre riferite al passato, chissà perché quando avvengono nell'attualità si sa sempre qualche anno dopo. Cristina, sentiamo qualche ascoltatore. Cristina, buongiorno. Buongiorno a lei, sì. Grazie. La sto ascoltando, lei mi ha chiamato, cosa deve dire? Ah, sì, no, pensavo che si ricollegasse a quanto avevo prima comunicato, cioè un mio punto di vista. Ritenevo che oltre alla macchina del fango si debba anche un po' citare e affrontare quella che mi è venuta in mente di chiamare la macchina della melassa, ma è il primo nome a caso in realtà. Cioè i giornalisti lecchini mettono insieme la macchina della melassa. non ho detto Lecchini, questo lo dice lei. Vabbè, trovi altri nomi, non lo so, ne esistono i più volgari di accezioni per definire il leccaggio a fine di beneficio di una persona potente. Però è questo, dice la macchina della melassa, da una parte provoca melassa e dall'altra parte provoca fango. Chiaro, esatto. Stefano, brava, Stefano, buongiorno. Buongiorno, sì. Volevo dire anche io molte cose, a volte i giornalisti, ma anche se... Sì. Non ha detto niente. Beh, si è autoeliminato, era una banalità. Claudio, vuol dire i giornalisti vanno a simpatia, non è che vanno a simpatia. La simpatia è basata su elementi oggettivi che creano comunque consenso, beneficio, se sono, diciamo, in qualche maniera condizionati nel loro esprimersi. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io penso anche vada contestualizzato il momento, cioè ricordo la campagna stampa che fu fatta soprattutto poi da un libro della Sederna su Giovanni Leone. Sì, fu condannata poi per questo. Scoperto, sì, fu scoperto poi anni dopo che erano quasi tutte balle. Cioè, Leone ne è uscito poi pulito sia dal... A tutti divertiva, a noi che siamo delle tricotese, divertiva tantissimo vedere sul palco del ludibrio un personaggio come il Presidente della Repubblica. Ha avuto tutti i difetti del mondo, ma quello che c'è alla Cederna non era oggettivamente dimostrabile, quindi fu condannato. Non solo, ma c'era anche poi una parte di gossip su presunti relazioni della moglie di Leone, sì, con ma... con i corazzieri, si è detto di tutto, ma chiaro, uno non può avere, se è bassetto coi baffi napoletano, una bella moglie, è chiaro che uno deve illazionare anche su questo, ma fa parte del gioco, è triste, ma vede, la storia poi è fatta dei luoghi comuni, i luoghi comuni costruiscono la storia, non le realtà oggettive. Vincenzo Mastronardi, ricordo che poi è l'autore del libro di cui stiamo parlando, Mass Media e Fango. Lei all'inizio proprio del suo libro ha messo a punto alcune patologie proprio per cui avviene questo. Vediamo se riusciamo a definire quello che è il decalogo del giornalista perverso, perché questo mi interessa, voglio capire gli elementi scatenanti perché ciò accada. L'altro ospite mi ha detto ai massimi livelli, le trame più oscure nei momenti più bui della Repubblica. Gli ascoltatori ricordano le banalità, dal libro della Cederna vennero fuori tonnellate di facezie sulle quali ci siamo nutriti e sulle quali ci siamo fatti il nostro concetto di storia recente. Guardi, il libro, come per dedica nella primissima pagina, è dedicato ai giornalisti onesti con se stessi e col proprio pubblico. Il libro è fatto con i giornalisti, peraltro. Ho coinvolto costruttivamente e produttivamente sia Maurizio Martinelli del TG2. Sì, ma adesso non faccio l'ecco dei buoni, non mi interessa, voglio sapere... Anzi, fermiamoci un attimo, devo dare la linea al traffico, solo un istante. Poi lei si concentra e mi deve dire qual è il decalogo del giornalista perverso. Lo diciamo come una sorta di esempio per noi, è un memento mori. Dobbiamo capire esattamente quali sono i meccanismi che agiscono in noi quando ci facciamo portatori poi di un'informazione che in realtà non è corretta, non è coerente, lascia delle tracce indelebili in quello che è il cammino della storia al quale noi abbiamo mestamente contribuito a creare menzogna. Tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Abbiamo appena chiesto al professor Vincenzo Mastronardi, che ha scritto il libro di cui stiamo parlando sulla mass media e fango, i clamorosi falsi giornalistici, Armando Editore, quali sono gli elementi perversi per cui questo accade. Vediamo se riesce a sintetizzarmene qualcuno. Ne menziono subito tre. Il decalogo del giornalista perverso. 1. Non controllare mai la verità dei fatti, potrebbero nuocere al sensazionalismo. 2. Anche se scopri che la verità dovesse non risultare utile per una buona notizia bomba, amplificala, deformala e o distorcila. 3. Soprattutto non distaccarti mai dalla costruzione manipolata che hai in mente, è importante che ti abitui a strutturare una realtà diversa da quella vera. Quella vera non fa notizia e corri il rischio che non interessi a nessuno. Gliene menziono anche una quarta. Una volta che hai costruito una notizia deformata, sostienila con tutte le tue forze. Il tuo capo sarà entusiasta. E poi ancora, non tradire il tuo pubblico. amico si fida di te e delle tue straordinarie immaginazioni manipolative. Ancora sei, non farti problemi di coscienza, o se proprio non puoi addomesticare la tua coscienza con i 12 meccanismi di svincolo morale del giornalista, cauto con te stesso e quindi accontentati. Se proprio sei messo alle strette da un fatto incontestabile, ricorri alla costruzione di una nuova verità. Le verità sono mutevoli e si prestano ai migliori artefatti e così via. Perché ottavo, se anche la verità non si prestasse a manipolazioni, ricorri alla strategia del ridicolizzare il personaggio. Scusi, ma Massonale, poi mi deve dire una cosa. Lei che è anche psichiatra, quindi conosce i meccanismi profondi che agiscono nell'inconscio. Nella media, secondo lei, qual è il senso per cui i grandi flussi di informazione agiscono così? Ci sarà, io la prevengo subito, una parte di opportunità per cui gli editori, le testate, i direttori vogliono che in qualche maniera in questo momento si faccia quel tipo di servizio a chi loro reputano opportuno, e questo, diciamo, è la necessità: o mangi questa minestra o salti la finestra, ti viene fatto capire molto chiaramente, se vuoi ti adegui, se no entri nel cosiddetto cono d'ombra, quindi non scrivi, non parli, non ti ascolta più nessuno. Ma esiste anche una sorta di personale autoesaltazione, di essere sulla cresta dell'onda, di cavalcare il consenso, di essere dalla parte di più, una sorta di adeguamento al nonnismo informativo, se vogliamo chiamarlo così, una sorta di bullismo informativo, e si sta dalla parte dei bulli, si è più protetti. C'è questo? I motivi sono almeno tre, ecco, qualcosa l'ha accennata lei. C'è appunto sia il fatto che se la competizione è fertile, a questo punto quella testata può andare avanti a gonfie vele. Se vince la competizione, se la sua notizia esce ancora prima delle altre, se è una notizia che fa effetto, ed ecco che il titolo poi dopo, da una recente ricerca del 2014 su un'importante rivista americana di psicologia, su 10.000 persone, uno, i titoli riescono ad influenzare l'interpretazione dell'intero articolo. E questo è chiaro, Mastronardi, è chiarissimo, si va col vento in poppa e guai a disturbare il timoniere. Luciano Garofalo, buongiorno. Buongiorno. Generale Carabinieri, ex comandante dei RIS di Parma, oggi la vediamo spesso come esperto, come tecnico nei grandi processi che appassionano il mondo, ma lei di macchina del fango ne sa bene qualcosa, ma la sintetizza in un istante? Ma purtroppo sì, a quei tempi io ero indagato per dei reati molto gravi che erano il falso e quelli che normalmente sono i più gravi per un amministratore pubblico. Tutto è stato archiviato nel 2013, quindi era una montatura che era nata da una denuncia fatta dall'avvocato Taormina, che aveva recepito alcune confidenze di persone. Il problema è che a quei tempi io facevo notizie, forse come oggi, e fui veramente sottoposto ad una settimana di gogna mediatica, e quando la mia vicenda è stata chiusa, soltanto la Gazzetta di Parma con un trafiletto l'ha citata. Quando mi sono rivolto al giornalista che aveva fatto esplodere tutto, che è Luca Ponzi della RAI, per chiedergli, beh, adesso credo che sia necessario ridarmi la giustizia che mi è stata tolta, con mille scuse il soggetto si è defilato. Eppure sappia che quando allora questa indagine era emersa e io mi congedavo, il mio congedo non era assolutamente legato a questa indagine, dissi a Luca Ponzi: ci vedremo, ti voglio chiarire, per favore non fare un servizio che sia fuorviante. Ma poi mi dice una cosa, purtroppo lo è stato. Generale, la posso chiamare ancora generale? Certo, come generale, vuole. Generale a tutti gli effetti, comandante. Allora, mi dice esattamente, dal punto di vista proprio di un generale Carabinieri, che può essere poi anche la stessa sensazione del privato cittadino che viene accusato, non so, di non pagare le tasse, di rubare, di avere le corna, qualunque cosa. E rimane comunque un'aura negativa, mefitica, rispetto alla menzogna per chi la subisce. Lei è ancora riabilitato, da tutti i punti di vista può andare a faccia alta, non ha fatto niente di cui deve vergognarsi. Ma sente ancora un po' l'ombra di questo meccanismo che in qualche maniera l'ha travolta? Assolutamente sì, se l'ho superato da un punto di vista personale e parzialmente psicologico, non l'ho superato nell'evidenza dei fatti, perché ancora adesso, c'è, proprio perché l'informazione non è stata così puntuale nel ristabilire la verità, spesso ancora vengo avvicinato per dire ma poi quella sua storia si è risolta, ovvero strumentalizzata in dibattimento. Lei non sa quanti avvocati hanno falsificato questa cosa dicendo che io addirittura ero stato cacciato dall'arma per questo tipo di vicenda. Quindi non lei avrà tutta la vita, vero. Generale, avrà tutta la vita qualcuno che si darà di gomito alle sue spalle, direi sì, però quello è quello, c'è una storia dietro, così. Purtroppo sì, e anche colleghi criminologi, non faccio il nome, sempre per quella malsana competizione hanno usato questo tipo di strategia perversa, ma proprio perché l'informazione va in un solo senso. Ecco perché insieme al professore Mastronardi abbiamo ritenuto di scrivere questo libro. E qui la domanda che faccio finale ai colleghi e al pubblico: se ancora un esempio doloroso e uno strascico negativo se lo porta dietro un generale carabinieri, che immaginate quanti strumenti abbia comunque per difendersi, pensate un privato e sconosciuto cittadino che entra nella macchina della menzogna, quanto avrà un macigno immenso sulle spalle per tutta la sua vita. Questa è la riflessione. Grazie a tutti.